Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Entro mercoledì prossimo, 30 novembre, dovrà essere pagato l'acconto IRPEF dovuto per il 2011, ma abbiamo una bella sorpresa, questa notizia è arrivata ieri: dovrà essere pagato solo l'82% dell'acconto, non più il 99%. Il rinvio è stato infatti disposto da un decreto della Presidenza del Consiglio, una misura che complessivamente vale 3 miliardi di euro, e c'è il via libera anche alla riduzione di 3 punti percentuali per l'acconto relativo al 2012, che sarà pari al 96%. Per chi ha già effettuato il pagamento della misura, nella misura del 99%, spetta un credito d'imposta che è pari alla differenza pagata in eccesso, che si potrà appunto utilizzare in compensazione con un modello F24. Il differimento del pagamento appunto dell'acconto non è una novità, era già previsto anche dalla manovra del 2010 e quest'anno viene replicata, ma è una misura particolarmente significativa perché significa praticamente pagare un acconto inferiore di almeno il 17%, il che significa appunto che qualche soldino in più potrà essere nelle nostre tasche. Sicuramente non ce lo aspettavamo, però stamattina forse vale la pena, visto che questa novità è arrivata ieri e la trovate stamattina su tutti quanti i giornali, vale la pena fare un po' di chiarezza su a quanto anche potrà essere quantificato questo prelievo inferiore, quanto varrà nelle nostre tasche questo acconto più leggero. Stamattina il Sole 24 Ore, lo fanno anche altri giornali, così producono un po' alcuni esempi, effetti sui redditi di pensionati, di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi. E dunque, se avete delle domande su questo tema, chiamateci all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Stamattina in fretta e in furia abbiamo convocato due dei nostri ospiti abbastanza ricorrenti su queste tematiche, sulle tematiche fiscali. Saluto e ringrazio Tonino Morina, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, una delle firme storiche su questi argomenti per il quotidiano. Morina, buongiorno e bentornato, buona giornata. Ehi Deborah, buongiorno a tutti. Tra l'altro stamattina la sveglia per Morina è suonata prestissimo, ma per quale motivo alle 5 già in ufficio, Morina? Ma grazie a Dio l'Agenzia delle Entrate ci dà tanto lavoro, quindi non possiamo dire che soffriamo di astinenza da lavoro e quindi a fine anno specialmente. Insomma, mi piace raccontare ogni tanto anche questi aneddoti che contraddistinguono un po' la relazione anche tra il giornalista e i suoi ospiti. Ci sono delle relazioni anche molto affettuose, spesso non tanto asettiche come il fisco, per cui insomma, non per farci gli affari di Tonino Marina, ma per raccontarvi che tante volte anche comunque gli esperti di temi fiscali, per correre dietro a tutti gli adempimenti, a tutte le novità e provvedimenti che continuamente vengono presi, appunto bisogna che ci si svegli molto presto per conoscerli a fondo, così come appunto per altri impegni invece che ci sono a Roma questa mattina. Si è svegliato credo abbastanza presto anche Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani. Dottor Carpentieri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, naturalmente, come sempre, i nostri ospiti sono a vostra disposizione. Vi ribadisco le modalità: 800 24 0024 se volete chiamarci ed intervenire in diretta, in alternativa scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Diamo un'occhiata alla borsa oggi, che anche in questo caso, un po' come l'acconto IRPEF, tira un sospiro di sollievo perché abbiamo dei recuperi di circa un punto e mezzo delle piazze finanziarie europee. Certo, rispetto ai ribassi continui e profondi degli ultimi giorni il recupero è ben poca cosa, ma quantomeno abbiamo uno stop all'emorragia che sui listini azionari sta andando avanti da diverse settimane. Milano guadagna l'1,50%, Parigi più 1,26%, Francoforte più 1,13%, Londra un po' più modesta segna un più 0,4%. Le buone notizie oggi sono arrivate dalla Germania, esattamente come brutte erano arrivate ieri, oggi sono state migliori. Abbiamo avuto il dato finale del prodotto interno lordo del terzo trimestre, cresciuto dello 0,5%, questa è la lettura finale. Su base annua, l'economia tedesca nel terzo trimestre è salita del 2,6%. C'è stato poi l'IFO tedesco, l'indice che misura la fiducia delle imprese tedesche, è salito a sorpresa a novembre a quota 106,6 punti e anche in questo caso appunto un dato che ha sorpreso positivamente la comunità stabilità economica e finanziaria. E poi dalla Germania, terza buona notizia, il governo ha fatto sapere, non l'ha fatto sapere, è un'indiscrezione di stampa, che non escluderebbe più categoricamente gli euro bond come strumento per contrastare la crisi del debito. Chissà che questa lezione impartita ieri alla Germania, il fatto che l'asta appunto dei Bund sia andata praticamente parzialmente deserta ieri, non sia servita proprio ad Angela Merkel per così capire che deve forse un po' cambiare anche atteggiamento nei confronti sia degli altri paesi sia nei confronti di questa, tra le varie ricette necessarie per risolvere la crisi dell'Eurozona, appunto, come sapete, degli Eurobond, la questione degli Eurobond, la Germania aveva proprio questo forte atteggiamento di no nell'adozione di questo strumento per appunto sostenere i paesi in difficoltà. Adesso forse c'è una schiarita, un'apertura che potrebbe anche questa oggi far bene al mercato. Milano, un'occhiata ai migliori titoli della seduta: Mediolanum più 5,79%, Unicredit più 4,59%, Fiat più 4%, Ubibanca più 4%, Intesa San Paolo più 4%. Oggi potrebbe arrivare la designazione del nuovo amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo, si riunisce il consiglio di sorveglianza della banca e dovrebbe arrivare Enrico Tommaso Cucchiani, plenipotenziario di Allianz Italia, potrebbe essere appunto nelle prossime ore il nuovo amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo, perché come sapete Corrado Pasta è andato a fare il ministro dello sviluppo economico. Lottomatica più 3, Fiat Industrial più 2,83, Fondiaria più 2,67%, mentre in discesa abbiamo A2A che perde quasi un punto, Campari meno 0,3, Autogrill meno 0,27%, euro su dollaro a 1,33,74, spread fra BTP e Bund, questa mattina eravamo in discesa sui 469 punti base, poi di nuovo in risalita intorno ai 480. Vi ricordo che lunedì c'è il BTP Day, noi parleremo diffusamente di questa operazione. Appunto, stamattina si è appreso che oltre a tutti gli operatori finanziari, l'iniziativa promossa dalle banche italiane, ha aderito anche Borsa Italiana, però su questo non mi soffermerei oltre perché ne parleremo diffusamente lunedì prossimo. E allora andiamo al tema di questa mattina. Come vi anticipavo, c'è questa sorpresa: novembre a conto IRPEF è ridotto. La seconda rata appunto si versa nella misura del 99%, adesso invece è stato stabilito che, secondo quanto ha definito un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo acconto da versare sarà nella misura dell'82%, però ci sono molti contribuenti che il versamento l'hanno già fatto e a cui magari questa riduzione, questo risparmio farebbe comodo, lo può recuperare. E cosa succede però anche per i versamenti successivi? Questo non è un regalo, naturalmente solo un rinvio di pagamento, un differimento, come è stabilito. Liscia appunto proprio la terminologia, il gergo fiscale. Allora cominciamo subito con il nostro Tonino Morina, che stamattina ne scrive diffusamente sulle Sole 24 Ore. A novembre IRPEF più bassa del 17%, come dicevo però Tonino, questo differimento il nostro ordinamento lo conosceva già in qualche maniera, qua cambia solo la soglia percentuale. Nell'ultima novità, tre anni fa già c'è stato un leggero abbassamento, addirittura fu al 79%, ora è all'82%, quindi fu quello più generoso, sì, quello legato a Tremonti. Esatto, no, ma si può dire che questo è un così un retaggio del vecchio governo, perché in effetti c'era solo da inserire nella legge di stabilità 700 milioni di euro, tanti sono la differenza tra i 3 miliardi presunti in meno che andranno nelle casse dell'erario con quelle che verranno meno da questa riduzione. Quindi era un provvedimento frutto del vecchio governo in un certo senso. Naturalmente accogliamo con gioia che il nuovo governo riduce un po' questo acconto di novembre, quindi nasce, diciamo, sotto la buona stella in un certo senso il nuovo governo, e speriamo che ci siano provvedimenti che siano utili per tutti. Per quanto riguarda questo acconto, sicuramente sono più di 7-8 milioni circa i contribuenti interessati che potranno avere in buona sostanza dei soldi, come si suol dire, per pagarsi le spese di Natale, insomma, e poi rinviare il tutto nell'anno prossimo. Rimane fermo anche un aspetto, al di là della riduzione dell'acconto, che chi rispetto all'anno prima, per esempio, avesse un reddito la metà dell'anno prima, non è che debba per forza versare l'82%, può versare le imposte sulla base del minore reddito rispetto all'anno prima. Questo ricordiamolo ai nostri ascoltatori, perché magari, visto il momento di crisi, uno che l'anno scorso ha dichiarato 100.000 euro di reddito non è che debba per forza pagare l'82%, magari facendo i calcoli può pagare molto meno dell'82% perché fa la tassazione sulla base della previsione di quest'anno. Quindi questo ricordiamo ai nostri ascoltatori, perché in tema di sanzioni, ricordiamo un'altra cosa, se si sbagliano i calcoli si rischia una sanzione del 30%. Ecco, allora volevo subito salutare un ascoltatore che ci scrive a salvadanaio @radio24.it, Angelo, che dice: sto seguendo la trasmissione, faccio subito un'osservazione, l'acconto non è stato ridotto ma postergato, cioè rinviato a giugno prossimo. Ma Angelo, ci faccia almeno finire di parlare, abbiamo cominciato la trasmissione da 2 minuti e mi sembra che è stata la prima cosa che abbiamo detto. Nessuno parlava di un regalo ma solamente di un differimento, l'abbiamo detto in tutte le salse. Poi risponderò anche alla seconda parte della sua domanda, questo lo dico perché molto spesso tanti ascoltatori neanche cominciamo la trasmissione che già subito sollevano il problema delle cose non dette. Dateci un secondo di tempo, fateci respirare e spiegare con calma. Claudio Carpentieri dall'Assemblea Nazionale della CNA, buongiorno ancora. Buongiorno. Sarà stato un tema anche della vostra assemblea questa mattina, è stata una buona notizia che è planata su questo vostro consesso quest'oggi? No, assolutamente sì, anche perché come ricordava benissimo Romina Molina, per tutti i cittadini non imprenditori si tratta sì veramente di un mero posticipazione del versamento di tributi per quelli che hanno un reddito così stabile. Per le imprese che hanno visto, purtroppo ancora tante da nostre informazioni, hanno visto un ulteriore peggioramento della situazione economica nel 2011, avere la possibilità di pagare un acconto inferiore vuol dire senza rischi andare a non anticipare tributi che si scoprono poi non dovuti. Perché dico senza rischi? È vero, come dice correttamente Donnino Molina, che posso fare determinare l'acconto in via previsionale, no? Prevedendo e calcolando l'acconto sul reddito effettivamente realizzato nel 2011. Tuttavia per molte imprese questo calcolo può essere rischioso, perché io la chiusura dei conti ce l'ho al 31/12, quindi ecco, devo stare molto largo. Avere la possibilità di ridurre l'ammontare di acconto col metodo storico, cioè basato sull'anno prima, mi consente di ridurre le somme dovute con più sicurezza. Questo è il nostro punto. Capito perfettamente. Una cosa, perché voglio dire, una piccola critica, no? Perché è sicuramente da applaudire al fatto di averlo stabilito, però non posso non negare che 2 miliardi e 300 milioni di lire erano stati già stanziati dal luglio del 2010, cioè perché era in previsione di ridurre non solo la seconda rata di acconto di novembre, ma anche la prima rata d'acconto, che è quella di giugno dell'anno scorso. E non è stato fatto in questo caso? Non è stato fatto, ma poteva essere fatto perché lo stanziamento già c'era. Il fatto di aver aggiunto con la legge di stabilità 700 milioni per riportare la riduzione dell'acconto non al 13% come poteva essere secondo i tedeschi calcoli, ma al 17%, è stato un qualcosa che poteva essere fatto sbagliato solo sulla seconda rata, no? Va bene, comunque in ogni caso quello che è successo ormai non lo possiamo più rivedere e correggere, ma solo commentare a posteriori. Carpentieri, quello che ci interessa questa mattina è capire intanto, magari così, fare una piccola quantificazione di quanto risparmio artigiani, piccoli imprenditori, contribuenti, anche dipendenti, perché attraverso il sostituto l'imposta possono ugualmente beneficiare di questa riduzione dell'acconto, appunto, ma soprattutto entrare anche nelle questioni pratiche per capire chi ha già versato, se vuole beneficiarne, come può fare, e insomma tutti gli aspetti pratici di questo tipo, perché c'è già qualche ascoltatore che naturalmente dice: il mio commercialista non ne sa niente. È anche abbastanza probabile, le devo dire la verità, lo dico a Claudio da Milano che poi faremo intervenire. Anch'io ieri ho comunicato questa notizia al mio commercialista e ovviamente io la sapevo ieri mattina alle 11, lui ancora materialmente non aveva avuto modo appunto di conoscere questa novità. Diamo un paio d'ore almeno ai professionisti di adeguarsi alle notizie che arrivano anche improvvisamente. A volte 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Ci prendiamo solo un paio di minuti di pausa e poi subito a tamburo battente, come ormai amo dire da un paio di giorni, con le domande dei nostri ascoltatori. E allora eccoci di nuovo in diretta a Salvadanaio. Il tema di cui parliamo oggi, il contenuto di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del quale abbiamo avuto notizia ieri, che ha deciso di ridurre la misura dell'acconto IRPEF di fine novembre dal 99%, percentuale già stranota, all'82%, un differimento perché ovviamente poi questa differenza non è regalata ma va versata in giugno prossimo, però insomma questo ha comportato dei plausi da diverse categorie professionali e anche appunto insomma dal mondo dei contribuenti, perché questo significa versare meno e avere appunto chiaramente qualche soldino in più in tasca adesso nelle prossime settimane, magari per stare un po' più tranquilli a Natale. Vedo che molti contestano questa nostra impostazione di questa mattina, perché chiaramente molti dicono ditelo che non è che se non li tirano fuori adesso non dovranno tirarli fuori poi, ma l'importante è saperlo, cioè voglio dire, non è che vogliamo sponsorizzare nessun tipo di iniziativa piuttosto che un'altra, però l'importante è che queste cose si sappiano e magari invece, come ci spiegavano anche i nostri interlocutori di questa mattina, nella fattispecie Claudio Carpentieri della CNA, insomma per molti lavoratori autonomi che quest'anno hanno visto un calo drastico anche del loro fatturato e dei loro introiti, magari questa boccata d'ossigeno può essere tutt'altro che trascurabile e indifferente. La platea dei beneficiari calcolata si aggira sui 7.200.000 contribuenti. La CGA di Mestre ha calcolato un risparmio medio derivante da questa operazione di circa 400 euro a testa, poi naturalmente con tutte le punte estreme. Oltre a Claudio Carpentieri della CNA, con noi questa mattina anche Tonino Morin, esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore, che stamattina spiega in largo e in lungo, il funzionamento appunto di questa rimodulazione praticamente dell'acconto per fine mese dell'IRPEF. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Sentiamo immediatamente i nostri ascoltatori, cominciando con un Claudio da Milano. Stamattina, oltre che Claudio Carpentieri, abbiamo anche tanti Claudio all'ascolto che ci hanno chiamato. Il milanese Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Spero che sentiate bene, io ho un po' la linea disturbata. Comunque niente, io sono nella condizione di quei lavoratori autonomi che hanno avuto un drastico calo di guadagno. Scusi. E volevo sapere, adesso il commercialista mi aveva già preparato il modello unico per fare il pagamento. In termini pratici, cioè dovendo pagare, mettiamo 100, io teoricamente, secondo il mio commercialista, non so ancora niente ed è mercoledì la scadenza, cosa posso fare? Allora, il commercialista non viene a saperlo. Intanto le chiedo anche una cosa, se eventualmente si sa già se cambierà il codice tributo. Ah, bravo, brava domanda. Quindi proprio entriamo davvero nel pratico. Visto che è un lavoratore autonomo, Carpentieri, vengo da lei, poi comunque faccio supportare anche il nostro esperto di questioni fiscali. Beh, tanto il commercialista non avrà saputo niente ieri pomeriggio, ma ormai stamattina mi auguro che quantomeno i suoi giornali di riferimento, il Sole 24 Ore, Finanza Oggi, cioè Italia Oggi e tanti altri, li abbia guardati. Carpentieri, allora... diciamo il commercialista deve chiaramente rifare un calcolo. Certo. Mi pare la base. Allora, intanto il calcolo che deve fare, questo non so se è ancora sottolineato, ma non è sulla seconda rata d'acconto, perché ovviamente il 99% si paga in due rate. Quindi praticamente la seconda rata può essere ridotta non solo del meno 17% relativo alla seconda rata, ma si porta dietro anche il meno 17% della prima rata. Quindi il calcolo investe il complessivo acconto, quindi la riduzione sulla seconda rata è più alta del 17% di quello che deve essere. No, non credo che questo, non avevamo specificato affatto, quindi ha fatto bene a farlo. Perché va sul totale dell'acconto, no? Questa è solo la seconda rata. L'altra cosa che posso dire è che il commercialista, se ha già fatto i calcoli e ha già mandato gli F24, la possibilità per usufruire di questa possibilità ce l'ha nel mese di dicembre, perché quel maggior versamento di seconda rata d'acconto che ha fatto lo può recuperare come credito d'imposta per versare, non lo so, l'IVA relativa nel mese di novembre, che verserà a dicembre. Quindi oppure le ritenute, se ha qualche dipendente, quindi può fare addirittura, no? Anche una compensazione con l'IVA. Assolutamente, cioè la compensazione è l'istituto che gli consente di usufruire concretamente di questa possibilità qualora non ne abbia usufruito a novembre, o alla successiva scadenza utile di un versamento. Credo che peraltro la gran parte dei contribuenti autonomi, di lavoratori autonomi, appunto, si troveranno in questa condizione, perché immagino che ormai molti commercialisti, tutti avranno emesso appunto l'F24, per cui ormai tutte le procedure di pagamento siano già assolutamente avviate, pertanto ovviamente oggi è il 24, la fine del mese è alle porte, e se tutti hanno lavorato correttamente sarà ormai quasi tutto pronto per appunto adempiere correttamente a questa scadenza fiscale, per cui ormai si potrà andare solo di compensazione con dicembre. Come si dovrà fare? Quindi ce lo rispiega di nuovo Carpentieri, a prescindere dal caso dell'ascoltatore? Assolutamente, ci sarà l'individuazione di un codice tributo che consentirà al commercialista, all'associazione che compila l'F24 per il proprio assistito, lo metterà come importo a credito, dall'altra parte metterà il debito che deve versare, il saldo sarà la differenza tra i due valori, quindi ridurrà o azzererà anche eventualmente i versamenti tributari successivi fino a completa utilizzazione del maggior versamento di acconto che ha fatto adesso a novembre. Allora, andiamo ad un'altra domanda, volevo sentire, adesso sto scegliendo, Piero da Messina. Piero, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Senta, per me è una precisazione. Sì. Questa riduzione sull'acconto comprende anche l'IRAP e le addizionali IRPEF? Piero, allora l'IRAP non credo, Morina. Abbiamo scritto oggi sul Sole 24 ore, a pagina 12, non è prevista alcuna riduzione per l'IRAP, quindi ricordiamoci che questo così abbassamento, questa riduzione riguarda solo l'IRPEF, quindi nessun abbattimento per l'IRAP, nemmeno delle società di persone, società di capitali, così come sono confermati, leggo dal giornale di oggi, dal Sole 24 ore, le misure degli acconti per la cedolare secca, tassa piatta, ecco, e per il regime sostitutivo, quindi la riduzione riguarda solo l'IRPEF e basta, tenendo conto, come ha già detto benissimo Claudio Carpentieri, che questa riduzione ha effetto sull'intero importo. Gli esempi di oggi l'abbiamo riportato al Sole 24 ore già in prima pagina e poi a pagina 12, in cui, fatta per esempio una base di 10.000 euro, si doveva versare 5.940 come seconda rata, si andrà a versare 4.240, cioè un risparmio di 1.700 euro se uno aveva un debito storico di 10.000 euro, quindi un 17% che va ad abbattere sia l'importo della prima sia l'importo della seconda in maniera concreta, e insomma è un bel regalo a mio modo di vedere, perché come si dice da tutte le parti del mondo, per pagare per morire c'è sempre tempo. Ecco, no, io capisco poi l'impostazione degli ascoltatori, che magari certo in questo momento può far pensare ad un effetto un po' così emotivo, però ricordiamoci che poi magari anche questa crisi morderà ancora per qualche mese, non è che poi in giugno magari le condizioni saranno radicalmente cambiate, però in un momento complesso come questo, una boccata d'ossigeno, l'importante è che la si prenda, che si respiri con grande consapevolezza, che si sappia che c'è solo il differimento, il rinvio del pagamento di questa quota, ricordiamocelo, e poi insomma contestatela quanto volete questa misura. Sono sicura che a molti contribuenti, fra i 7 milioni citati appunto, ci sarà invece il concreto sospiro di sollievo del quale parlavo. Morina, siccome lei ci faceva alcuni esempi prima e molti ascoltatori ci stanno già dando i parametri precisi della propria condizione reddituale e della propria condizione di contribuente, noi non possiamo fare il calcolo a tutti del risparmio che arriverà in busta paga, ce ne fa un paio particolarmente significativi all'interno dei quali magari molti si possono ritrovare, una situazione tipica di un lavoratore dipendente o di un pensionato come quelli che riporta stamattina sul Sole 24 ore, tanto per dare un'idea di massima del risparmio che potrà arrivare in tasca? Ma in prima pagina abbiamo fatto un esempio di un pensionato che ha 30.000 euro di reddito con 4.000 euro di presunto debito IRPEF 2010, in questo caso lui fruirà di un abbattimento di 680 euro. Abbiamo fatto altri esempi con un lavoratore dipendente che ha un abbattimento IRPEF, che arriva tutto direttamente in busta paga nella pensione praticamente in questo mese? Esatto. Se non è stato fatto ancora il conguaglio, chiaramente il datore di lavoro potrà farlo tenendo conto della riduzione così come prevede la norma, e come ha detto oggi il Sole 24 ore, senza trattenuta cresce la busta paga. Se l'ha fatto lo potrà fare il prossimo mese o addirittura si può spostare più avanti. L'importante è che questo 17%, il sostituto d'imposta, ente pensionistico o datore di lavoro, restituisca, riduca l'acconto di novembre di questo 17%, che ripeto, era peraltro un provvedimento già in gestazione da molto tempo, si è perso anzi troppo tempo e quindi al di là del fatto che era già stato preventivato, come ha detto pure Carpentieri, che c'erano già una base di 2 miliardi e 300 milioni di euro, praticamente questo discorso è arrivato alla fine, è arrivato in porto, con qualche complicazione ai commercialisti, ma Dio, insomma, fare un calcolo non è molto complicato e quindi quando il contribuente ha da risparmiare qualcosina, anche se significa un rinvio fino a giugno, fino a luglio dell'anno prossimo, è bene che lo si faccia. Allora, visto che aveva citato l'esempio del pensionato, Morina, le faccio sentire anche la domanda di Maurizio da Milano, così rafforziamo un po' questi concetti qualora fossero sfuggiti a qualcuno. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Forse io non ho inteso, però un pensionato, da quello che ho capito, la Consol gli viene trattenuto con la pensione rilasciata il primo di novembre. Sì, per i pensionati le scadenze sono un po' diverse. Sul sito dell'INPS e hanno già disposto la tredicesima, la prossima pensione. Il pensionato dov'è che ha questo agio? Non ce l'ha. Maurizio, aspetti lì. Morina, vuole completare il discorso dei pensionati? Sì, lo avrà il prossimo mese perché è previsto dall'articolo 1 pubblicato oggi sul Sole 24 Ore che i sussidi di imposta che hanno fatto già i conguagli del mese di novembre devono restituire le maggiori somme trattenute nel mese di dicembre 2011. Tra l'altro quindi stiamo, la norma, stiamo parlando avrà una pensione più alta a fine mese. Ma, tra l'altro quello che io mi stavo chiedendo, stiamo parlando appunto di un meccanismo come se si dovesse attuare in automatico. Vorrei capire anche questo, se c'è una base di volontarietà, perché se io questo acconto me lo volessi pagare tutto adesso, Morina, per non andare poi a procrastinarlo a giugno, perché insomma dico magari io ho la forza economica per farlo, non posso decidere appunto di contrariamente di non versare l'acconto inferiore, nel senso che per semplicità alcuni contribuenti, infatti, ai quali abbiamo proposto stamattina con i miei figli di fare un acconto ridotto, ci hanno detto guarda, lascia stare, se pago 1.000 euro in più non succede nulla perché è un acconto che l'anno prossimo potrò compensare tranquillamente. Quindi ci sono diversi contribuenti magari che non vogliono nemmeno fruire di questa riduzione perché bontà loro hanno la disponibilità di farlo e quindi rinviare un pagamento a maggio, giugno, luglio dell'anno prossimo per loro non comporta grosse difficoltà e quindi molti contribuenti possono pagare quello che avevano già stabilito i commercialisti sulla base del debito storico senza alcun problema, anzi con benefici per l'erario. Benissimo. Ritorniamo al discorso. Ci ritorniamo dopo Tonino, perché devo andare a sentire i suggerimenti per chi in viaggio un attimino. Andiamo subito alle domande degli altri ascoltatori. Lorenzo dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Lorenzo, sì, buongiorno. Può abbassare la radio cortesemente? Sì, grazie. Sì, sono fuori, buongiorno. Allora, quello che volevo dire, io sono commercialista e ho già consegnato a tutti quanti i miei clienti le deleghe S24 da pagare per novembre. Come avranno fatto praticamente il 95% di tutti i suoi colleghi, Lorenzo. Allora, secondo me il provvedimento è un po' perché manca di una proroga praticamente. Soprattutto perché ci permetteva di riuscire a rifare i conteggi, rifare i calcoli. E soprattutto c'è un'altra considerazione che riguarda che riguarda il fatto dei sostituti d'imposta, datori di lavoro, per quanto riguarda il mancato, cioè l'avvenuta già trattenuta del conto di novembre con la busta paga di ottobre. Quindi ci dobbiamo rivedere e rifare tutti quanti i conteggi relativi e, come ha detto prima Morina, a compensare eventualmente con la busta paga di d'altronde dicembre. Sa com'è Lorenzo, questo governo è arrivato praticamente 2 minuti fa, di conseguenza ha fatto quello che poteva fare, intanto prorogare le misure per cui era necessaria una proroga immediata, e questa nella fattispecie appunto era una di quelle, perché appunto la procedura del differimento era già in vigore, si trattava qua di stabilire magari in che percentuale in questo caso potesse essere fatta. Carpentieri, non lo so, insomma l'unico modo con cui si può agire adesso è andare proprio con tutti i vari meccanismi di compensazione che sono possibili appunto per i commercialisti e i contribuenti. No, ecco, il professionista che si è collegato ha ragione, ma è la critica velata che ho fatto da principio, no? Cioè si sapeva da luglio del 2000 e 10 e poteva essere già stabilito addirittura sulla prima rata d'acconto, quindi a tutte le ragioni del mondo. La mi consentite un termine, la toppa che è stata messa dal provvedimento è la possibilità in automatico di utilizzare questo maggior versamento eventualmente effettuato o con l'F24 tramite ritenuta col sostituto nel stipendio successivo, nel versamento IVA o ritenute successivo, cioè quello che si fa il 16 di dicembre. Quindi ecco, il decreto stesso già ha considerato la tardività con cui è stato emanato, dando queste possibilità sia in un caso in cui c'è lavoro dipendente o pensione, sia nel caso in cui invece il soggetto IRPEF è un autonomo. Questo è la soluzione al problema che già era stato rilevato dal legislatore quando ha emanato il DPCM. Allora andiamo a Claudio da Bologna, che è un altro lavoratore autonomo, carpentieri, per cui avrò, immagino, ancora bisogno di lei. Claudio, buongiorno. Buongiorno a voi e bentrovati. Grazie. Domanda molto semplice, in pratica, come lavoratore dipendente volevo capire in che modo questa boccata d'aria io la beneficerò. Ah, dipendente, Claudio, pensavo che fosse lavoratore autonomo, perché vabbè, adesso non le spiego il motivo per cui mi si è generato questo equivoco. Un dipendente, vabbè, ma Carpentieri ci darà una mano anche su questo. Ecco, questo l'ha spiegato bene Tonino, sì, nel senso che se la ritenuta è già stata fatta e non ha considerato la ritenuta la quota d'acconto più ridotta, la differenza la troverà nello stipendio erogato nel mese di dicembre, quindi nel successivo stipendio. Ecco, ma tra l'altro un lavoratore dipendente a cui il sostituto dell'imposta pratica questo sconto può decidere appunto di non farlo? Ci sarà una comunicazione aziendale, questo, secondo lei? Adesso magari chiedo a Tonino, perché questo mi sembra rilevante. Ovviamente è tutto delle comunicazioni, cioè è già previsto il regime, perché se se il dipendente ha un altro reddito di cui il datore non è a conoscenza, può comunicarlo al fine proprio di aumentare addirittura le ritenute in corso di anno. In questo caso può sicuramente con lettera, con comunicazione al proprio datore di lavoro che non intende usufruire di questo beneficio perché non vuole vedersi diminuito lo stipendio relativo a giugno quando si paga il saldo. Ecco, però insomma bisogna essere svegli e capire che in questo momento c'è questo fermento in questo ambito, quindi magari farsi anche direttamente protagonisti di questa richiesta chiamando magari l'amministrazione della propria azienda. Tonino Morina voleva suggerire qualcosa a proposito di quello che stavo dicendo, appunto se non si volesse beneficiare di questa riduzione dell'IRPEF, appunto temporanea naturalmente, come abbiamo già detto. Morino, ma se si paga su base storica il problema non si pone, perché? Io purché paghi l'82% nella misura il problema non esiste. Naturalmente la sostituto d'imposta, se come dice Carpentieri, noi comunichiamo con tempestività, ma il sostituto d'imposta naturalmente, se parliamo di uno che ha 3 dipendenti è un discorso, uno che ha 300 dipendenti, se riceve 200 comunicazioni di chi vuole pagare per forza il 99%, credo che sarà nella realtà inverosimile che molta gente voglia pagare ed essere trattenuto avere trattenuto il 99%, per cui ritengo che è più un problema scolastico che reale. Ah, ecco, va bene. Senta, tra l'altro c'è un ascoltatore che adesso ha fatto casa la domanda al 349-238-666 che chiede se è possibile rateizzare l'acconto. Mi pare che a prescindere da questa rimodulazione appunto della percentuale non sia possibile in assoluto. Perfetto. Ok, me lo conferma così. Il 4 di novembre non si può mai pagare a rate. Infatti. Allora, Agostino da Roma, come ultima domanda di oggi. Agostino, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione che è molto molto efficace. Grazie, meno male. Dunque, io volevo solo dire questo. Io questa mattina ho fatto i miei pagamenti delle F24 per me e per mia moglie. Ho provato a fare il calcolo di quello che era il beneficio. E non è molto alto, perché questo 17% si recupera anche su quella di pagato su giugno. L'unico problema è che qualcuno dovrebbe stare un po' più attento a non gravarsi la scadenza di maggio 2012. E infatti, ma Agostino, perché oltre a recuperare questo 17% ci sarà il saldo del 2011 e ci sarà l'acconto del 2012. Agostino, sono le cose che ha detto a me ieri il mio commercialista. Quando io mi sono lasciata tentare da questa opportunità, lui mi ha detto: sì, vabbè, però stai attenta che poi la legnata di giugno è ben diversa, per cui poi magari, come dire, emotivamente tu sei pronta ad un certo tipo di pagamento, invece te ne arriva altro. Quindi grazie per avercelo ricordato, Agostino. Magari facciamo anche la stessa raccomandazione, forse questo può valere per i lavoratori dipendenti, forse per gli autonomi però questa riduzione adesso ha un'efficacia diversa. Vorrei un po' ribadire e stressare questo concetto, Carpentieri. Sì, che sì, dice? No, lo ribadiamo come abbiamo ribadito il primo, cioè che per gli indipendenti, insomma per i dipendenti e per i pensionati è un qualcosa di temporaneo, perché quelli che in generale si identificano come coloro che hanno un reddito stabile. Per coloro che hanno reddito variabile, hanno subito un ulteriore appesantimento della situazione economica a causa crisi nel 2011, invece potrebbe essere anche definitivo, perché io vado a versare un qualcosa in meno che poi a saldo non dovrò versare, perché il mio reddito del 2011 è inferiore a quello del 2010, e questo senza rischi, a prescindere cioè quindi dalla possibilità di fare il calcolo previsionale dell'acconto, che comunque quello del regime è comunque previsto. Carpentieri, una domanda per concludere complicatissima, mi deve rispondere in 5 secondi. Emilia ci chiede: il differimento si applica anche agli autonomi in regime di minimo? Direi di no, perché è imposta sostitutiva di tutti i tributi, e quindi in generale no, perché non è IRPEF appropriatamente. Benissimo, grazie a Claudio Carpentieri e Tonino Morina per essere stati con noi, pur essendo stati chiamati all'ultimo minuto. Grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Noi naturalmente torniamo domani. Che vi devo dire? Buona IRPEF a tutti, buona giornata.